Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana natalizia. E allora, natalizia sarà per noi, non per i mercati, che sono in calo in questo momento dell'1,3% su Milano, -1,8% l'S&P MIB, -0,80% Francoforte, -0,3% l'America, -1,80% Parigi. Parecchi titoli che perdono: Autogrill -6, Espresso -5, Unicredito -4, Ubibanca -4, Atlantia -4, Unipol -3,7, Finmeccanica pure, Fastweb, Generali e Generali perdono il 3,5, Alleanza e Luxottica il 3%. Bene invece Geox +3,8, Prysmian +1,2, Telecom +1%. Di cosa ci occuperemo? Tema dell'occupazione, rischio occupazione nel 2009, che cosa può fare lo Stato, quali provvedimenti prendere sul fronte della cassa integrazione guadagni, in modo da far sì che quella che a tutti gli effetti sarà una frenata del nostro sistema produttivo non si tramuti in espulsione di lavoratori tout court, e appunto quelli che si chiamano ammortizzatori sociali possono funzionare perlomeno per guidare le imprese italiane, anche e soprattutto le piccole e medie, oltre il guado del 2009. Su questo diversi interventi, e soprattutto ne discutiamo perché, come molti di voi avranno letto, la Germania ha scelto una strada diversa da quella di altri paesi, e cioè ha deciso di puntare su una riduzione della settimana lavorativa come proposta, e non tanto quindi di iniettare nel sistema maggiore liquidità o avere fondi come hanno deciso invece altri paesi, penso alla Gran Bretagna, ma non solo, per sostenere, diciamo, il sistema produttivo. In sostanza, in Germania ci saranno le imprese autorizzate a ridurre l'orario di lavoro per un anno e mezzo. Gli stipendi dei dipendenti saranno più leggeri, sicuramente in base all'orario, ma lo Stato coprirà tra il 60 e il 67% della parte mancante di salario, a seconda del numero di figli a carico. La Daimler Chrysler ha già ridotto l'orario di 19.000 dipendenti, la Opel sta valutando la riduzione per altri 27.000. Parleremo anche delle difficoltà in cui si muovono i piccoli imprenditori, che sono particolarmente arrabbiati perché sentono sulle proprie spalle il peso di una crisi che non hanno generato, crisi che si è generata per follie finanziarie, investimenti in prodotti tossici, e di cui loro stanno pagando in prima persona le conseguenze, con il paradosso che adesso si dice: beh, gli imprenditori che hanno fatto cassa in questi anni sono quelli messi meglio, dopo che per anni si è detto agli imprenditori stessi: investite, innovate, chiedete soldi in prestito, aumentate la capitalizzazione. E ora si scopre che solo chi ha tenuto fieno in cascina è affidabile. È oggettivamente un paradosso: non si può dire a un imprenditore investi e allo stesso tempo poi dirgli: beh, sei bravo solo se i soldi li hai in cassa. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Parleremo anche nella seconda parte del programma della proposta tedesca, perché in sostanza in questo momento ci sono due linee di intervento. C'è chi interviene direttamente con soldi pubblici sulle imprese, e c'è chi invece preferisce ridurre l'orario di lavoro e vedere se in questo modo, con integrazioni statali, si riesce a far passare il 2009, perlomeno la parte più brutta del 2009, che dovrebbe essere quella dei primi sei mesi. Ho detto Daimler Chrysler, chiaramente mi riferivo solo a Daimler, e giustamente un ascoltatore me lo fa notare. Chiedo venia. Allora, rapidamente la notizia in breve. Mm. Poco mossi i mercati valutari, nel senso che l'euro continua a essere a quota 1,40 sul dollaro, siamo a 1,3934 per la precisione adesso, e l'euro continua sempre a essere molto forte sulla sterlina verso quota 95 pence, siamo a 94,56. Petrolio aperto intorno ai 40 dollari, 42 dollari per la precisione, un calo dello 0,6%, dopodiché continuano le tensioni tra Mosca e Kiev, quindi tra la Russia e l'Ucraina. Il vice premier russo Zubkov ha detto che anche il presidente di Gazprom ha detto che l'attuale posizione ucraina potrebbe avere conseguenze sul transito di gas. Mosca ha minacciato di interrompere le forniture di gas a Kiev dal 1 gennaio 2009 se entro fine anno non salderà il suo debito con Gazprom, oltre 3 miliardi di dollari che mancano, le casse che l'Ucraina deve salvare. Ricordo anche che il gas russo, che rappresenta un quarto di tutto il fabbisogno europeo, per l'80% passa attraverso l'Ucraina. Ma Kiev ha detto oggi di essere pronta a garantire nel proprio territorio il transito del gas russo verso l'Unione Europea. Ancora sul fronte internazionale, l'Euribor a livello europeo, quindi il tasso interbancario, è sceso ulteriormente al 3,05%, è il livello più basso dal 27 giugno del 2006, quindi continuano a scendere i tassi di rifinanziamento delle banche a livello europeo. Cercheremo di capire anche con gli imprenditori più avanti se poi si noti questo calo dei tassi nel costo dei prestiti alle imprese. Sempre sul fronte dei tassi, anche la Cina ha tagliato per la quinta volta in tre mesi il tasso di interesse di un 27 punti base. Quello dei prestiti a un anno è sceso al 5,3, quello sui depositi al 2,25. E se Toyota annuncia la sua prima perdita operativa in 71 anni, e questo la dice lunga sulle difficoltà che in cui versa anche la casa automobilistica giapponese. In Irlanda avete letto via libera al piano da 5 miliardi e mezzo per salvare le prime tre banche irlandesi. Anche qui l'Irlanda era considerata un piccolo gioiello, evidentemente troppa finanza fa male anche all'Irlanda. Per quello che riguarda gli effetti della crisi sul sistema bancario italiano, ebbene, l'ABI oggi ha comunicato che gli utili sono in calo del 30,4% nel 2008, meno 16% gli utili complessivi del sistema bancario nel 2009. Ha detto però anche l'ABI che le banche italiane stanno reagendo relativamente bene alla crisi e non c'è in corso alcun credit crunch, ossia nessuna stretta sul credito per famiglie e per imprese. Poi arriva il solito bollettino di preoccupazione, la Confesercenti dice che 1.800.000 italiani salteranno il cenone. L'Istat oggi, ne parleremo più avanti, ha diffuso il dato sulla ricchezza delle famiglie, è relativo alla fine del 2007, con una crescita del numero di famiglie che dichiarano di aver avuto momenti con difficoltà per addirittura l'acquisto di cibo, dal 4,2 al 5,3%, ed è salito leggermente il dato però relativo fino alla fine del 2007, anche il numero di famiglie che ha dichiarato di arrivare con molte difficoltà alla fine del mese, dal 14,6 al 15,4%. E allora, visti i temi e visto quello che annunciavo, cioè il nostro primo tema di approfondimento, che cosa fare sul fronte dei cosiddetti ammortizzatori sociali, quindi come tenere botta una crisi immaginando e sperando che la parte più brutta e più virulenta sarà nei primi mesi del 2009, poi stando alle previsioni che abbiamo letto a fine 2009 dovrebbe iniziare a ripartire anche l'economia. Partiamo col primo tema, e cioè come affrontare cassa integrazione, ma non solo, le difficoltà occupazionali che si prospettano per il nostro sistema produttivo. Dicevamo che il dibattito si è aperto anche per la proposta tedesca della settimana corta con meno ore lavorate e salari ridotti. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il ministro al welfare Maurizio Sacconi. Ministro, buonasera innanzitutto. Buonasera. Dunque, Ministro, la Germania ha proposto un orario ridotto in cui in sostanza lo Stato poi copre quella parte, o copre buona parte del mancato guadagno dei dipendenti. Il Centro Studi Confindustria stima il prossimo anno 600.000 persone in cassa integrazione, 1 milione le stime della CGIL. Il governo finora ha stanziato, se ho ben capito, complessivamente 1 miliardo e 26 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori. Prima domanda: la convince l'ipotesi tedesca che invece che iniettare denaro direttamente va a intervenire laddove le imprese non riescono più a pagare il salario, cioè riduce la giornata di lavoro e lo Stato compensa quasi totalmente, cioè in ampia parte? Più che ipotesi tedesca, è un'ipotesi che fa parte della cultura italiana. Basta pensare all'istituto della cassa integrazione, proprio rivolto a mantenere vivo il rapporto fra il lavoratore e l'impresa. Spesso questa sospensione dall'attività e a rotazione fra i lavoratori, oppure non porta il lavoratore a 0 ore, ma ne riduce soltanto il numero di ore lavorate. Quindi si tratta di appellarci ad una tradizione di relazioni industriali che abbiamo già avuto, che si realizza per esempio anche con i contratti di solidarietà, per fare in modo che la base occupazionale rimanga ampia, anche se il minore carico di lavoro determinato dalla crisi globale può comportare per molte persone, come abbiamo detto, una riduzione dell'orario di lavoro e un sostegno al reddito per il tempo non lavorato. Per cui lei dice, insomma, noi siamo già strutturati come welfare, non abbiamo neanche bisogno di arrivare alla settimana corta, possiamo utilizzare la cassa integrazione a rotazione e anche la cassa integrazione la cassa integrazione ordinaria. Le chiedo come anche si farà anche straordinaria. Sono vari gli strumenti che possiamo utilizzare e che abbiamo già utilizzato nella nostra tradizione di relazioni industriali. Le chiedo come si farà a capire, lo dico senza malizia, quando diciamo un sistema di imprese, un distretto o la singola impresa veramente ha bisogno, diciamo, di un passaggio, di un prestito ponte si chiamerebbe in altri casi, e quindi di un'integrazione per far fronte alla crisi, e quando invece non vi sia la tentazione di andare subito verso la cassa integrazione senza tentare altre strade prima, perché non si può nemmeno avere una corsa complessiva alla cassa integrazione. Intanto i sostegni non sono mai alle imprese, la Commissione europea non ce lo consentirebbe, sono rivolti ai lavoratori e sono rivolti ai lavoratori sulla base di intese tra le parti, che sono sempre la premessa per poter fruire di questi ammortizzatori. Noi dobbiamo evitare ogni deresponsabilizzazione dell'impresa. La riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione strutturale dei lavoratori deve essere la inesorabile conseguenza di una valutazione non solo contingente ma anche prospettica di quell'impresa, e questo non può che essere il frutto di una dialettica fra l'azienda e le organizzazioni sindacali, con la partecipazione anche degli enti locali, delle regioni e la disponibilità da parte nostra a servire con quanta più tempestività le intese che nel territorio si raggiungono. Ministro, state pensando anche a un osservatorio, cioè a un'authority o insomma un organismo che vada a monitorare e vigilare su quanta cassa integrazione viene poi concessa, come si muove? Ci siamo già organizzati oggi con una unità per la tutela dell'occupazione, che ha riunito le competenze di alcune nostre direzioni, delle nostre due agenzie Italia Lavoro e ISFOL e dell'INPS. Questa unità ha proprio il compito di monitorare la situazione nei diversi territori, di offrire un interlocutore quanto più efficiente alle parti sociali, alle regioni, agli enti locali, in modo da seguire e curare la fase più acuta della crisi nei prossimi mesi, con la maggiore attenzione proprio al fattore umano, alle persone. Ancora due rapidissime domande. Lei si è fatto un'idea di quanti soldi potrebbero servire? Fermo restando che, se non ricordo male, ma vado a memoria, 150 milioni in più erano presenti nel decreto anticrisi, però mi corregga se sbaglio la cifra. Bisogna capire anche quanti ne potrebbero servire nel 2009. Ecco, sul maggior numero di soldi, detto brutalmente, lei che idea si è fatto? noi non possiamo con certezza dire quante, di che, quale sarà la dimensione delle esigenze. Noi intanto ci siamo organizzati con una dotazione di oltre 1 miliardo di euro dedicata ai cosiddetti ammortizzatori in deroga, che cioè risorse che si aggiungono a quelle che senza limite vengono messe a disposizione dei lavoratori che hanno diritto agli ammortizzatori che chiamiamo ordinari, perché le relative aziende ne pagano i contributi. Questo miliardo peraltro deve essere considerato come un volano e sarà molto importante utilizzare fondi europei, consentire attraverso un accordo con le regioni una ben diversa e migliore allocazione delle risorse per la formazione, di quelle che in larga parte vengono dal Fondo Sociale Europeo e che spesso si sono tradotte solo in una gran festa di formatori, ma che non sono stati certo questi fondi percepiti dai beneficiari come utili nella gran parte dei casi. In una stagione come questa dobbiamo realizzare quindi una leale e straordinaria collaborazione tra Stato e Regioni per riorientare queste risorse in modo che vadano quanto più al reddito delle persone e quanto più ad un vero concreto apprendimento. Ministro, mi rendo conto che non sia parte diciamo, dei compiti del suo Ministero, però siccome ci ha raggiunto in collegamento anche Paolo Bastianello, che il presidente della Marys S.p.A., membro del direttivo di Confindustria e autore di un articolo in venerdì scorso su Sole 24 Ore in cui tutte le difficoltà, l'amarezza, anche un po' la rabbia dei piccoli imprenditori del Nord-Est di fronte a questa crisi emergeva con forza. Grazie Bastianello anche a lei per averci raggiunto in collegamento. Vorrei capire che ne pensa lei del ruolo che dovrebbe esercitare il governo nel suo complesso, quindi lo Stato, nei confronti del sistema bancario. Oggi l'ABI ha detto non c'è nessun credit crunch, non c'è nessuna ristrettezza nel credito, anche per noi sarà un anno difficile, ma da più parti, soprattutto nel mondo diciamo delle piccole imprese, si invoca anche un intervento quasi di moral suasion, cioè l'Euribor è al 3%, noi riceviamo molte segnalazioni di imprenditori e anche di famiglie che non hanno visto un grande calo nei tassi variabili. Pensa che sarà necessario, potrebbe essere necessario a questo punto, un intervento politicamente forte nei confronti del mondo bancario se le banche continuassero a non diminuire il costo finale diciamo del prestito? Ma io temo che sarà necessario un intervento robusto nei confronti delle aziende di credito, soprattutto per la maggiore disponibilità che deve essere richiesta loro a consentire liquidità al sistema. Senza entrare nel merito del credito, però noi abbiamo non a caso voluto dare vita a sistemi di monitoraggio presso tutte le prefetture in modo che vengano segnalate tutte le situazioni anomale e che ci sia una forte attenzione, anche se vogliamo inusuale, nel senso che a straordinarietà della situazione possono ben valere modi straordinari, in modo che sia forte la persuasione morale verso le aziende di credito, tanto più verso quelle che chiedono un aiuto per la loro stessa ricapitalizzazione. Quindi alta la guardia e forte la pressione a che non ci siano comportamenti opportunistici, miopi, da parte del sistema creditizio. Allora Bastianello, visto che poi con lei parleremo della rabbia e dell'orgoglio, per usare un titolo assolutamente noto del suo articolo, però se vuole chiedere una cosa in estrema sintesi al Ministro, la possibilità Radio 24 gliela offre. Prego. Intanto buonasera signor Ministro. Buonasera. Sono lieto di sentirla e ci conosciamo, ma la mia richiesta è semplice, mi allineo completamente a quello che lei ha appena detto. Ci vuole un'attenzione particolare, perché quello che viene deciso molto spesso sui tavoli a Roma, e guardi che le testimonianze sulla mia lettera di venerdì sono arrivate dai miei colleghi non solo dal Nord-Est ma da tutta Italia, quindi vuol dire che non è un problema solo del Nord-Est. Ci vuole una grande attenzione, per cui i sacrifici li dobbiamo fare noi imprese, i nostri lavoratori, e qualche sacrificio però lo devono fare anche le banche, che devono almeno avere l'onestà intellettuale di ammettere che in questa situazione non è certo colpa nostra, le cause sono molteplici, ma devono giocare ad armi scoperte sugli stessi tavoli dove siamo noi. Questo, ecco, quindi la mia richiesta, e ne approfitto e ringrazio Leon De 24, so che lei è sensibile a questi discorsi, ma che ci sia un'attenzione veramente particolare, che non si resti a espressione di volontà sui tavoli e poi sul territorio non si vede assolutamente niente di quello che poi viene sbandierato sui giornali. Chiaro, Ministro? Sì, la capisco bene e i segnali giungono anche a noi in questo senso, che e sarebbe davvero devastante se le aziende di credito partecipassero di una crisi complessiva della liquidità del sistema, che sarebbe ovviamente un'ipotesi devastante. Noi dobbiamo garantire liquidità, dobbiamo impedire che si blocchi il sistema dei pagamenti, dobbiamo iniettare davvero fiducia, non retorica ma concreta, e per questo insisto, noi abbiamo pensato anche attraverso il decreto anticrisi a modi che ho definito inusuali per sollecitare il sistema creditizio a comportamenti responsabili e non, ho detto prima, miopi ed opportunistici per essere particolarmente generoso. Quasi come un eufemismo. Va bene, io la ringrazio e buon Natale anche al Ministro Sacconi, lo auguriamo a tutti, chiaramente i nostri ospiti in questi giorni, vedremo poi il monitoraggio come andrà nel 2009, ripetiamo, inutile fasciarsi la testa, sicuramente i primi sei mesi saranno, per quello che vediamo, la parte più dura, c'è l'ultimo rapporto del Centro Studi Confindustria che va in questa direzione. Grazie al Ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Invece... auguri a voi e agli ascoltatori. Allora, ho detto, citando il famosissimo articolo di Oriana Fallaci, quindi forse un po' troppo, ma la rabbia e l'orgoglio che usciva da questo articolo di Paolo Bastianello, un classico industriale veneto, il Sole 24 Ore di venerdì, in prima pagina, noi piccoli imprenditori vittime delle follie finanziarie. Dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, mi sembrava abbastanza chiaro dalle parole del Ministro Sacconi, nostro ospite fino a qualche minuto fa, che la situazione non è facile, che la cassa integrazione guadagni, secondo Sacconi, è già lo strumento che noi abbiamo, non abbiamo bisogno di fare come in Germania, per cui lo Stato interviene quando si riducono le ore di lavoro, ordinaria, straordinaria, e che comunque ci sarà un aumento, un ricorso. Non ha voluto dare delle stime, ma insomma mi sembrava abbastanza chiaro che il governo si attenda di tirar fuori altri soldi su questo, oltre al 1,26 miliardi già utilizzati. Bastianello, al di là, diciamo, dell'invito che lei ha fatto al Ministro a controllare le banche per quello che fanno, nel suo articolo ne leggo alcuni passaggi. Insomma, gli imprenditori avvertono un profondo distacco, con aspetti a volte cinici ed arroganti, di un sistema creditizio che non ha mai dichiarato apertamente la propria unica responsabilità di investimenti fumosi, inconcreti, che però hanno permesso per anni di presentare risultati di redditività a due cifre, dietro ai quali c'erano solo grandi castelli di carta straccia. Solo alcune banche, popolari e cooperative, si mantengono correttamente al nostro fianco, ma non possono sostenere tutto il mercato. La rabbia è questa? La rabbia è questa. Eravamo, dottor Barisoni, già in un momento di crisi, prima dello tsunami finanziario, quindi tutte le aziende, quando si diceva lo 0,4, lo 0,3 di crescita, sono tutti numeri che dicono che si stava rallentando l'economia come minimo italiana e europea, quindi le aziende si stavano già preparando ad attaccare nuovamente i mercati emergenti, penso alla Russia, penso al Brasile, penso all'India, e all'improvviso il mondo è cambiato. Allora, ci sono delle aziende che si erano esposte in queste campagne di investimenti per superare la crisi. E dalla sera alla mattina ci sono state delle aziende che si sono trovate con un aumento del 50% di ordini. Quindi hanno dovuto far fronte a delle situazioni impreviste. E contemporaneamente si sono anche trovate sole di fronte a un sistema finanziario che magari gli diceva: ma hai avuto tanti insoluti, ho capito, ma c'è crisi, non hai risposto a questo o a quell'altra domanda, oppure abbiamo bisogno di smobilizzare ordini, richieste di imprese, adesso non si può più, fino a un mese fa sì, oppure ancora peggio, dobbiamo passare per la direzione generale, nessuno più dice niente perché tutti hanno paura oltre i loro problemi. Tutto questo ha creato mancati pagamenti, una mancanza di liquidità nelle piccole e medie, ma penso anche nelle grandi aziende, per delle cause che obiettivamente non ci sentiamo, perché non è una rabbia del Nord-Est, mi creda, è generale. E questo è venuto fuori dal mio articolo, perché ho inteso, come presidente della Marlis, senza farmi strumentalizzare per i miei incarichi confindustriali, ho inteso richiamare. Il mio è stato un forte richiamo. Non si può sentire un ministro della Repubblica che dica che abbiamo garantito i soldi alle banche e quindi i problemi di liquidità sono a posto. Vuol dire che questo ministro della Repubblica TG7 non era informato 15 giorni fa dell'esatta reale situazione. Lei dice anche in un passaggio, adesso non posso leggerlo tutto, certo, ma dobbiamo pagare noi, soprattutto quei piccoli e medi imprenditori a cui viene detto non avete fatto cassa, vi siete indebitati. Cioè c'è un paradosso qui: per anni alle imprese, soprattutto quando piccole, è stato detto indebitati, trova un fondo di private equity, vai in borsa, chiedi soldi alle banche perché devi crescere come dimensioni, devi aumentare comunque la tua capitalizzazione complessiva, devi fare investimenti, devi andare sui mercati esteri, devi cambiare il processo e il prodotto. E adesso chi ha fatto questo è una specie di appestato rispetto a chi ha tenuto i soldi sotto il materasso? Ma è certo che chi ha fatto questi investimenti, sono tantissime le aziende, si trova a corto di una certa liquidità. È certo che tutti noi dovremo rimettere mano ai portafogli e fare meno gli immobiliaristi, su questo non c'è ombra di dubbio. Però non si possono neanche dequalificare delle aziende nel giro di 3 giorni, uno perché ne sono nei settori diciamo pericolosi e dentro ci sta tutto il voluttuario, il tessile, l'abbigliamento, l'orafo, la concia, l'arredamento, tutti coloro che vanno al consumo, e due perché c'è bisogno di tempo. La mia preoccupazione, dottor Barisoni, è che i bilanci del 2009 saranno terribili e lì bisognerà avere la forza, la lucidità, la capacità professionale da parte della finanza di capire quali sono i progetti industriali e gli uomini atti a sostenerli, perché sarà il 2009 che sarà l'anno veramente terribile, non solo per la disoccupazione, ma perché i nostri bilanci saranno purtroppo, e spero di essere smentito, non positivi. Allora, lei dice, visto che la crisi non l'abbiamo generata noi, era già in corso un rallentamento, certo, dell'economia, poi ovviamente 1.200, 1.500 miliardi di danno per ora stimato a livello mondiale per i geni della finanza creativa, spacciatori, alcuni li chiamano addirittura pusher di prodotti tossici, ma insomma i danni creati da questi geni hanno dato la botta finale a un sistema economico che già stava frenando, no? È come uno con il raffreddore lo porti fuori nudo sulla neve, non penso che migliorino le cose. E voi dite adesso nel 2009 noi ne risentiremo, però non trattateci come ci si potrebbe trattare in una situazione normale: l'impresa che perde fatturato, perde volumi, deve rientrare, perché stiamo pagando anche le conseguenze di quello che voi avete generato, se ho ben capito il ragionamento. Ma quindi cosa chiedete? Una specie di moratoria per un anno in cui le banche vadano a capire che con questa crisi, se continuano a non abbassare di fatto, io lo so che molti dicono a livello ufficiale non è vero, ma noi riceviamo molte segnalazioni anche di direttori di banca che dicono: guardate che qua abbiamo fatto un giro di vite su tutto, privati e imprese. Cioè che ci sia una specie di moratoria sul credito che vi faccia traghettare al 2010? Esatto. Per moratoria intendiamoci, se le aziende, e qua bisogna vedere se le banche sono professionalmente preparate ad esaminare le aziende come fossero delle merci o dei fondi su cui devono investire, il sistema creditizio deve, insieme con l'impresa, verificare la bontà dei progetti, perché sicuramente avremo una punta di estrema, di marea bassissima a livello di risultati, di ricavi. Perché qui i ricavi non è che calino del 5, del 10%, per cui uno dice stringo cinghia. Qui purtroppo ci sono delle ipotesi di ricavi del 20, 30, 40%. Sostituirle con nuovi ricavi ci vuole tempo, semina, bisogna girare per il mondo. In un mondo dove fino a 2 mesi fa c'era il BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, travolti anche loro dalla crisi finanziaria. Quindi la mia semplice domanda che faccio sempre: domani mattina andiamo in giro per il mondo a vendere, quali sono in questo momento i mercati che possono assorbire il famoso Made in Italy o altri tipi di prodotti? Quindi ci vuole del tempo insieme per ricostituire questi presupposti. Allora, ne leggo solo uno dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Siamo una piccola impresa di Valenza, quindi non nord-est, settore oreficeria. Abbiamo chiesto 100.000 euro alla banca, ce ne hanno dati 60.000 con due case come garanzia. Ecco, non è, diciamo, quello che vorremmo vedere, senza criminalizzare nessuno, ma come atteggiamento. Anche perché sennò il sospetto, lo dico io così non lo dice lei, è che le banche, sfruttando il calo dell'Euribor, cioè quanto costa il denaro a loro nel prestarselo, e mantenendo invariato invece a quanto lo fanno pagare a noi o alle imprese, con questo arbitraggio, questa differenza, recuperino perdite accumulate appunto con prodotti tossici in questi anni. Beh, sarebbe un po' scorretto che uno si... L'obiettivo del 2009 è stare in piedi, deve essere un obiettivo comune. Poi penseremo anche a guadagnare, ma adesso dobbiamo stare in piedi tutti, noi il 50% che va a fondo, e magari qualcuno al 2009 presenta anche di bilancia inutile, perché probabilmente tutto questo, la coperta è troppo corta, non si riesce a farlo. E quindi il credito alle imprese. Sul fronte della cassa integrazione guadagni, voi avete intenzione... Guardi anche qui proprio l'ultimo direttivo, la richiesta generale è stata quella di chiedere al governo che tutte le risorse disponibili vengano concentrate sugli ammortizzatori sociali in generale, quindi anche la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, perché ce ne sarà bisogno, e abbiamo anche aggiunto che in questo giro i nostri fondamentali collaboratori e dipendenti non devono pagare cause che non dipendono da loro. Quindi se ci sono pochi soldi, lo Stato italiano ne ha pochi per n motivi che non è qua il caso di elencare, e non è certo colpa di questo governo, ma le risorse che siano concentrate lì, se non ci possiamo permettere altro. E in effetti noi notiamo anche da questo punto di vista richieste di integrazione della cassa integrazione, ma anche di un monitoraggio, non sto leggendo gli sms, di un monitoraggio molto forte di quello che sta avvenendo sui mercati che potrebbero ripartire, non lo so, forse qualche, alcuni di voi scrivono il Medio Oriente, sì, forse il Medio Oriente, forse alcuni paesi che hanno sofferto meno, non c'è moltissimo però in giro. Due richieste quindi, Bastianello, in bocca al lupo, tra l'altro a me è molto sorpreso, sempre come segno dei tempi, il fatto che alcune imprese, in ordine sparso, ma insomma, abbiano iniziato a detassare la tredicesima di loro sponte, pur di non mollare i collaboratori e i dipendenti. Su questo forse in effetti il governo poteva anche non levare quella misura sugli straordinari e sul credito d'imposta per la ricerca. Andava sicuramente tenuta. Sì, sul decreto anticrisi andava tenuta, anche perché si era fatta una battaglia su questo, ma vabbè. Ormai questa è storia, vabbè, vediamo cosa succederà, massima sensibilità, io sono d'accordo con lei e con tutti quelli che dicono qua si sta a galla tutti, o diciamo si prende acqua o si imbarca acqua tutti, le banche non pensassero di essere, diciamo, completamente in un altro paese e in un altro emisfero. Grazie anche, in bocca al lupo, buon Natale al presidente della Marius S.P.A. Paolo Bastianello, e veramente auguri. Grazie, grazie. Adesso i mercati finanziari, la borsa meno 2,3% l'S&P MIB, meno 1,7% il MIBTEL, meno 2,3% Parigi, meno 1,2% Francoforte, meno 0,90% Londra, e l'America perde lo 0,80% in questo momento, chiusura vicina ai minimi o sui minimi per molte borse europee. Iniziamo con alcuni titoli. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, Unicredito, per carità, la settimana scorsa aveva fatto un balzo dell'11%, oggi perde 5,6%, i motivi? Sì, venerdì peggior scorso, titolo dell'S&P MIB. Sì, venerdì scorso, come hai già detto tu, il titolo aveva registrato un'ottima performance, più 11%, sia grazie a, diciamo, delle raccomandazioni positive, ma soprattutto grazie al fatto che oggi sono stati rivisti tutti i pesi nell'indice S&P MIB, e quindi in previsione di questo cambiamento alcuni investitori avevano comprato a man bassa, soprattutto negli ultimi minuti di contrattazione, quindi oggi ci sono le prese di beneficio che comunque sono state incoraggiate anche da uno studio di Merrill Lynch sul settore bancario, e nel quale appunto la banca americana ha rivisto al ribasso la raccomandazione su UniCredit da buy a neutral. Io non so, visto che vogliamo fare una moratoria anche per le banche, io farei anche una moratoria con i report di banche che hanno beccato 12, 10, 14 miliardi di svalutazioni. Io non lo so, ma insomma è come se uno che si è preso il raffreddore o che ha appena distrutto la macchina spiegasse a un altro come si guida. Bah. Vabbè, però i report ci sono, ne diamo atto. No, una risposta la devo dare invece ad alcuni ascoltatori. Attenzione, nessuno ha detto che le imprese vadano salvate in blocco. Se alcuni imprenditori non hanno utilizzato bene i soldi in questi anni e ce li hanno spesi per beni propri, hanno sprecati, sarà il mercato con questa situazione a farli fuori, e è compito della banca, come ricordava anche Bastianello, valutare quando un imprenditore è in difficoltà perché oggettivamente la domanda è ferma, i mercati non chiedono più il suo bene e lui sta cercando di ristrutturarsi, di mettere mano e di innovare, oppure quando è in difficoltà perché ha fatto banalmente la cicala e allora sono fatti suoi purtroppo anche dei dipendenti. Ma insomma, distinguere tra cicale e formiche, tra persone serie e persone non serie, è compito di chi eroga il credito. Nessuno dice che devi darlo così a man bassa, però devi darlo ai seri, non è che puoi stringere per tutti, perché allora non ci capiamo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per il commento sulla giornata di borsa. Vedo che molti messaggi, come immaginabile, in realtà riguardano il primo tema di questa puntata. Il ministro Sacconi, il nostro ospite, è un caso di impresa come quello raccontato da Paolo Bastianello. Il tema è l'occupazione. Dunque, giustamente alcuni di voi fanno notare che il problema non è solo nel lavoro dipendente, nel lavoro precario, nel lavoro interinale, in chi aveva contratti a termine. Siamo d'accordo, diciamo che già arginare, mettere la linea del piave, la diga, chiamatela come volete, sul lavoro dipendente attraverso la cassa integrazione già rappresenterebbe un bel elemento di tenuta per il sistema, perché se viene meno anche quella, poi è chiaro che il sistema si muove tutto assieme. Se le banche non stringono, anche gli imprenditori respirano, se gli imprenditori respirano riescono a rimodulare le strategie, e a cascata sul lavoro interinale, che è sicuramente la parte più debole, quello interinale, quello precario in generale, non c'è dubbio su questo, però bisogna iniziare a porre dei paletti almeno su quello a tempo indeterminato, perché spesso poi è il lavoro che garantisce il mutuo della casa, garantisce magari è il primo salario, è il salario principale in casa, per cui insomma quello è ancora più delicato, senza nulla togliere alle altre forme contrattuali che addirittura sono anche più in difficoltà. Comunque, Leonora Micheli, al di là di Unicredito, vediamo altri titoli oggi sul listino, perché da un lato mi è andata male anche l'Espresso, meno 5,8, Autogrill meno 5,6, Finmeccanica meno 4,8, come Atlantia, UbiBanca meno 4,5, Italcementi meno 4,4, Unipo meno 4,3, Luxottica meno 4%. Sul fronte opposto molto bene Prismian più 7,7, Mediaset più 2,4, Geox più 2,2, Lottomatica più 1,6. Allora, Prismian da un lato e dall'altro invece Autogrill e alcuni bancari. Guarda, Prismian ha fatto più 7,77, ma proprio sul finale. Sì, negli ultimi minuti. Era andata bene, ma d'altra parte questo balzo così consistente è avvenuto proprio negli ultimi minuti. I trader sostengono che nella giornata odierna ci sono stati pochi spunti e acquisti soprattutto da parte di investitori esteri più che italiani, visto che l'approssimarsi delle festività si contratta solo domani a Piazza Affari e poi rimane chiuso per festività. E gli investitori esteri magari guardano più anche meno alle storie, più ai fondamentali e anche all'analisi tecnica. Prysmian era scivolata molto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, essendo peraltro un titolo in mano fondamentalmente a fondi ed hedge fund. Evidentemente c'è qualcuno che ritiene che le attuali quotazioni siano abbastanza severe nei confronti dei fondamentali dell'azienda, che invece continua a far contratti. Peraltro, anzi, la scorsa settimana l'amministratore delegato ha detto anzi che l'azienda è in pista anche eventualmente per fare delle acquisizioni nel corso del 2009, che sarà un anno difficile, ma comunque Prysmian ha evidentemente velleità di grandezza, visto che ha allo studio eventuali acquisizioni. Io mi auguro che nel 2009 chi ha i soldi in cassa, chi non ha problemi con le banche, insomma, il mercato offrirà anche qualche offerta, qualche saldo, qualche occasione di acquisto. Mediobanca più 0,6%, Ennio Doris, oggi uno dei soci, ha detto che i conti sono buoni, la tenuta dei conti è buona. Invece vorrei capire se c'è qualche novità su UbiBanca, perché anche qui le voci si sono sprecate in queste settimane. UbiBanca, fusione, accordo, integrazione, si è fatto il nome della Popolare Italiana, insomma del Banco Popolare. UbiBanca perde il 4,5%, il Banco Popolare il 3,3%. No, guarda, oggi in verità è vero sì che è uno dei peggior titoli, ma d'altra parte non ci sono state particolari voci. È una giornata in cui praticamente non sono stati molto apprezzati i titoli bancari, anzi c'è una sorta di rotazione settoriale, si vendono le banche e ci si sposta più ad esempio sulla telefonia. La stessa Telecom Italia ha chiuso ad esempio il rialzo dello 0,17%, ma durante della seduta mostrava un progresso diciamo più marcato, insieme peraltro al comparto europeo delle TLC. Allora, ancora due titoli, i telefonici. Devo dire che oggi sia Telecom che Tiscali, Telecom poi ha chiuso con un più 0,17%, ma non sono andate male. E sul fronte opposto invece, anzi sullo stesso fronte di chi è cresciuto, anche Geox più 2,2%. Sì, Geox in questo caso diciamo è la lettera all'investitore pubblicata dal Sole 24 Ore ad aver riacceso i riflettori sull'azienda. Infatti appunto è scritto in questo articolo che Geox dovrebbe chiudere l'esercizio in corso con ricavi in crescita del 16%, attorno a 900 milioni e un EBITDA stabile. E peraltro anche lo stesso fondatore del gruppo, Mario Moretti Polegato, ha ribadito che è vero sì che il 2009 sarà un anno difficile, ma la società dovrebbe continuare a crescere e rimanere al top nel suo settore. E va bene, vediamo se poi così capiterà, noi ce lo auguriamo. Altri titoli rapidissimamente sono quelli, oltre a quelli già citati, di Luxottica meno 3,97, meno 4, Fastweb meno 3,80, Alleanza meno 3,5 come Generali e Banco Popolare, Fiat meno 3,24 con Toyota che per la prima volta nella sua storia in 71 anni annuncia le perdite. È ovvio che il settore automobilistico oggi non se l'è passata bene. Impregilo meno 2,90, Intesa meno 2,6 come Pirelli, STMicroelectronics meno 2,4, Enel meno 2,2, Mediolanum meno 2,1%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso torniamo sui temi delle famiglie, non solo occupazione ma anche consumi, insomma due facce della stessa medaglia. Io non vorrei entrare in questo gioco così tutto speculativo di ma i ristoranti sono pieni, la crisi non c'è, oppure non si arriva alla fine del mese. Cioè è chiaro che la crisi non morde tutti nello stesso modo, ha appena iniziato a mordere, ed è chiaro che ad alcune spese non si rinuncia, e magari giustamente uno non vuole rinunciare al ristorante, non vuole rinunciare ad andare in vacanza. Ne parleremo anche nelle prossime puntate, magari va in vacanza in maniera diversa, ma insomma non è che si possa immaginare che improvvisamente uno smette di vivere. La difficoltà nei consumi però c'è. L'Istat oggi fotografa a fine 2007, quindi prima che poi questa maledetta crisi si sfogasse, si scaricasse, già a fine 2007 era salito di quasi un punto percentuale il numero delle famiglie che ha dichiarato di non aver avuto nel corso dell'anno momenti con insufficienti risorse per l'acquisto di cibo. Sono il 5,3% del totale. E sale di quasi un punto anche il numero delle famiglie che ha dichiarato di arrivare con molte difficoltà alla fine del mese, al 15,4% del totale. Una famiglia su tre ha dichiarato di non essere in grado di far fronte ad una spesa imprevista e improvvisa di 700 euro. E allora, sentiamo direttamente il direttore generale dell'Istat, Linda Laura Sabadini, al microfono del nostro Marco Lignana, un pezzetto delle dichiarazioni che ha fatto durante il nostro GR Extra Large. Emerge una difficoltà ad arrivare alla fine del mese, una molta difficoltà, è dichiarata dal 15,5% delle famiglie, in peggioramento soprattutto nel centro-nord, e che si è arrivati anche a un 5,3% di difficoltà da parte delle famiglie ad acquistare il cibo nel corso dell'anno almeno una volta. Questo 5,3% supera il 7% per quanto riguarda il sud del paese. Un terzo delle famiglie ha difficoltà, avrebbe difficoltà a far fronte a una spesa imprevista di 700 euro. Si arriva nel sud al 46%, cioè quasi una famiglia su due. Il sud ha un reddito mediano che è tre quarti di quello del nord, il fanalino di coda è in assoluto la Sicilia, mentre la provincia di Bolzano, l'Emilia Romagna, Trento e la Lombardia sono le zone del paese che presentano un reddito più elevato. Quello che va detto è che l'Italia continua a mantenere un livello di disuguaglianza molto elevato, un livello di disuguaglianza tra nord e sud, quindi di distanza tra nord e sud, ma anche un livello di disuguaglianza molto elevato nelle regioni del sud, cioè la distanza tra i ricchi e i poveri all'interno delle regioni del sud è maggiore della distanza tra i ricchi e i poveri nelle regioni del nord. In questo bilancio così difficile c'è qualcosa di positivo? Diciamo che siamo ancora in una situazione, diciamo, dal punto di vista della distribuzione dei redditi, stiamo parlando della situazione del 2006, con un incremento nominale, diciamo, del reddito tra 2005 e 2006 del 2,8%, quindi da questo punto di vista ancora non siamo nella situazione più negativa che verrà invece nei mesi successivi e soprattutto con il 2008. Già i dati, diciamo, della fine del 2007 sulle condizioni di vita ci dicono che c'è una situazione di peggioramento che probabilmente si accentuerà con la crisi che si è sviluppata maggiormente nell'arco del 2008. Così il direttore centrale dell'Istat. Alcuni di voi scrivono: la crisi è colpa, i danni della crisi sono colpa dei media. Magari bastasse non leggere i giornali, non ascoltare la radio, non guardare la TV per andare in banca e trovare che le banche concedono credito, che i negozi sono pieni, che la gente ha di che consumare. Io vorrei che fosse così, temo che sia una spiegazione un po' di comodo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Molti messaggi che sono arrivati nel frattempo al 349-238-6666. Sulla crisi c'è, non c'è, le file nei grandi centri commerciali e ancora ristoranti pieni. Insomma, noi usiamo i dati ufficiali, lo abbiamo fatto anche in periodi in cui l'Istat non era particolarmente gradita in tema di inflazione. Devo dire che obiettivamente non è neanche immaginabile che le persone smettano di fare acquisti natalizi, né è immaginabile che la crisi colpisca tutti nello stesso modo, per cui il dato così empirico dice poco, perché c'è quello che scrive per cui non si riesce ad arrivare a fine mese, quello che scrive perché dice che i centri commerciali sono sempre pieni. E appunto, allora io andrei sui dati aggregati, andrei a vedere appunto che cosa ci dicono i valori aggregati, come le vendite al dettaglio, la produzione industriale e quant'altro. Detto questo, continueremo a parlare anche del modello tedesco, cioè di una settimana corta, di un piano in cui lo Stato interviene, alla luce anche di quanto ci ha detto in diretta il ministro Sacconi a inizio programma. Rapidamente le notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria. Uh, Ricordo a chi si fosse permesso in collegamento che una buona notizia è rappresentata dall'Euribor, dal tasso interbancario che è sceso ai minimi dal giugno del 2006. Buona notizia se poi questo si tramuta anche in un calo dei tassi praticati dalle banche alla clientela, sia imprese che soggetti fisici. La Cina ha tagliato i tassi per la quinta volta in 3 mesi e la Toyota oggi ha annunciato la prima perdita operativa da 71 anni, da quando in sostanza esiste. Stimava prima un utile, adesso sostanzialmente avrà una perdita di 1 miliardo e 220 milioni di euro. E il motivo per cui la Toyota va particolarmente male è perché le vendite sono impicchiate in tutti i mercati, ma soprattutto sono crollate le vendite negli Stati Uniti, meno 34% solo a novembre. Alcuni di voi ci hanno chiesto se parlavamo dell'Irlanda o dell'Islanda, magari un mio errore di pronuncia, no, è l'Irlanda, che è stato il primo paese a essere colpito a livello di sistema bancario dalla crisi. Ed è oggi, anzi ieri ha visto un intervento molto forte del governo, 5 miliardi e mezzo per salvare le prime 3 banche, 5 miliardi e mezzo di euro. In sostanza il governo immetterà 2 miliardi di euro in Allied Irish Bank e altri 2 miliardi in Bank of Ireland, e poi otterrà una quota, comprerà i 2/3 del gruppo Allied Irish Bank, in cui immetterà 1 miliardo e mezzo di euro. Ancora per quello che riguarda l'Alitalia, oggi ci sono state 14 cancellazioni di voli, questo fino alle 13 a Fiumicino, a causa dell'assemblea dei lavoratori dell'handling di AZ Airport. Infuriati molti passeggeri, anche perché molti di questi partivano per le vacanze di Natale. Io lo dico con massimo rispetto per le rappresentanze sindacali di all'Italia, ma di che cosa devono discutere ancora non l'ho capito. Vabbè, comunque. E va bene anche questo, l'Italia mi sembra ormai un problema superato, in qualunque modo lo si sia superato, ma è un problema superato. Ancora per quello che riguarda i mercati, ci chiedete come ha chiuso la borsa, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento. L'America in questo momento perde lo 0,8, Milano ha chiuso con un meno 2,3 sull'S&P MIB e meno 1,7 sul MIBTEL. Euro a quota 1,3942, l'euro sulla sterlina è sempre a 94 pence, poco mossi oggi i mercati valutari. Questa mattina invece era stata buona la chiusura in Giappone, più 1,6, brutta invece a Hong Kong, meno 3,3%. Adesso torniamo, prendendole e affrontandole in un altro modo, sul tema con cui abbiamo aperto, e cioè dopo esserci occupati della crisi dal punto di vista finanziario e bancario, dopo aver sperato inutilmente che non si trasferisse l'economia reale, adesso il fronte è il fronte dell'occupazione. Non c'è solo la stima molto allarmata della CGIL di 1 milione di cassa integrati, c'è anche quella del Centro Studi Confindustria che dice 600.000 cassa integrati in più nel 2009. Abbiamo sentito dalla voce del ministro Sacconi, ma anche da quella di un imprenditore come Paolo Bastianello, le difficoltà, la rabbia anche degli imprenditori che stanno pagando, i piccoli, soprattutto per colpe non loro, per un rallentamento economico che era già in atto, che poi è stato aggravato dagli investimenti finanziari dei geni di cui spesso abbiamo parlato. Sentiamo e poi c'è sul tavolo la proposta tedesca, ossia invece che dare soldi al sistema integriamo la busta paga dei lavoratori, ossia le imprese possono lavorare di meno, possono ridurre l'orario di lavoro per un anno e mezzo. La Germania ha visto salire la disoccupazione al 7,5%, sono 3 milioni di senza lavoro in Germania in questo momento. I dipendenti ricevono uno stipendio più leggero dal datore di lavoro, lo Stato poi copre la differenza tra il 60 e il 70% a seconda di quanti figli a carico vi siano. Daimler ha già ridotto l'orario di 20.000 dipendenti, la Opel sta valutando la riduzione dell'orario per 27.000 dipendenti. Sul modello tedesco sentiamo il commento che ci ha dato in diretta un'ora fa circa il ministro welfare Sacconi. Più che ipotesi tedesca, è un'ipotesi che fa parte della cultura italiana. Basta pensare all'istituto della cassa integrazione, proprio rivolto a mantenere vivo il rapporto fra il lavoratore e l'impresa. Spesso questa sospensione dall'attività è a rotazione fra i lavoratori, oppure non porta il lavoratore a zero ore, ma ne riduce soltanto il numero di ore lavorate. Quindi si tratta di appellarci ad una tradizione di relazione industriali che abbiamo già avuto, che si realizza per esempio anche con i contratti di solidarietà, per fare in modo che la base occupazionale rimanga ampia, anche se il minore carico di lavoro determinato dalla crisi globale può comportare per molte persone una riduzione dell'orario di lavoro e un sostegno al reddito per il tempo non lavorato. Quindi, se posso riassumere magari in maniera impropria, il ministro dice: noi abbiamo già la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, anche il fondo, il contratto di solidarietà, abbiamo già un sistema che, in cui lo Stato di fatto va a integrare l'orario di lavoro in meno. Da qui vorrei partire, dopo le informazioni per chi è in viaggio, con l'economista Michele Tiraboschi, anzi non è economista, ma è docente di diritto del lavoro all'Università di Modena, la cattedra che fu di Marco Biagi. Professor Michele Tiraboschi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, professor Tiraboschi, le abbiamo fatto ascoltare un pezzetto delle interviste che abbiamo avuto in diretta con il ministro Sacconi, il quale, aggiungo per chi l'avesse persa, ha anche detto che non è possibile in questo momento quantificare quanto sarà il carico in termini di spesa della cassa integrazione. Ha ricordato che il governo finora ha stanziato 1 miliardo per il sostegno al reddito di lavoratori sospesi o licenziati. Primo commento su quanto ha detto Sacconi, che noi il modello tedesco ce l'abbiamo già, è più un modello italiano. Poi vorrei capire anche che cosa si può fare per altre tipologie di lavoratori, penso a quelli a tempo determinato, a quelli interinali, ai contratti di collaborazione, come si chiamavano una volta. Però è vero che noi non abbiamo bisogno di fare quello che ha fatto la Germania, perché già la cassa integrazione lavora in quel modo? Beh, la risposta è positiva. Noi abbiamo un sistema di tutela del reddito, quegli ammortizzatori, che è stato a lungo criticato e che probabilmente non è un sistema fra i più moderni ed efficienti. Gli altri paesi puntano molto ai licenziamenti, indennità di disoccupazione. L'Italia oggi, con questo sistema arretrato, forse si trova in linea e più avanzata rispetto ad altri paesi, perché attraverso questi strumenti è possibile tenere in vita un rapporto di lavoro, cosa che gli altri paesi invece non prevedono, tanto è vero che in Germania si deve ipotizzare una nuova misura per consentire alle imprese di non licenziare e trattenere i propri lavoratori. Quindi noi abbiamo cassa integrazione ordinaria e straordinaria e anche contratti di solidarietà che, sebbene ci apparivano superati e da buttare via per far fronte a una nuova riforma, oggi sono utilissimi e consentono queste modulazioni di orario con una sospensione del rapporto. Cioè, quello che è importante è che il contratto rimane in vita e il lavoratore non perde il posto di lavoro. E quindi, una volta tanto, così come con le banche italiane si disse: beh, sono meno esposte, vuoi perché più arretrate, ma meno esposte di altre banche, anche in questo caso, come strumenti, la cassa integrazione, che sembrava uno strumento appartenere più agli anni 70 e a parte degli anni 80, diventa uno strumento di integrazione automatica, senza bisogno di fare una legge. Domanda. Esatto, prego. Esatto, anche se poi in alcuni casi, come per esempio i contratti di solidarietà, che sono dei contratti collettivi, occorre un'intesa a livello aziendale per quantificare la situazione di crisi, per capire quali lavoratori vengono coinvolti nella riduzione di orario e quindi per poi gestire e accompagnare. Quindi non sono delle procedure automatiche, ma sono delle procedure facilmente accessibili, con un grave limite su cui però si sta lavorando, che cassa integrazione, guadagni e contratti di solidarietà in genere si applicano ai settori più forti, ai settori con un numero di dipendenti significativo, mentre qui servono anche degli strumenti, come lei mi diceva prima, anche per i gruppi più deboli, per i lavoratori temporanei, interinali, per gli apprendisti che sono tradizionalmente esclusi, anche per i collaboratori a progetto. Qui è stato messo a regime recentemente, con un decreto legge di fine novembre di quest'anno, un canale nuovo, parallelo, che va a dare sempre questo strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione del rapporto di lavoro anche per questi settori non coperti o per questi gruppi di lavoratori che sono stati tradizionalmente esclusi, in particolare apprendisti e lavoratori interinali. C'è questo decreto legge, il numero 185, che chiaramente non è subito operativo, ma c'è la possibilità nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di metterlo a regime, e prevede un intervento abbastanza interessante, perché accanto all'intervento pubblico sollecita l'intervento di enti bilaterali che sono molto radicati proprio in quei settori che tradizionalmente non hanno beneficiato della cassa integrazione. Penso all'artigianato, ma penso anche al turismo, penso al commercio. Questo varrebbe anche per i lavoratori interinali, ho capito bene? Questo vale anche per i lavoratori interinali. In che formula, professor Tiraboschi? La formula è semplice: i lavoratori interinali oggi non hanno degli strumenti di sostegno al reddito se sono assunti a termine, potrebbero averlo se sono assunti a tempo indeterminato. Il decreto 185 prevede la possibilità, se l'ente bilaterale del settore e gli interinali hanno un ente bilaterale molto forte che è il fondo Format, mette una quota, un 20% di risorse private, lo Stato riconosce una quota integrativa che diventa una indennità di disoccupazione che accompagna questi lavoratori durante la fine del lavoro o anche in caso di interruzione anticipata della missione presso l'impresa utilizzatrice. Questa misura è già prevista oggi nel decreto legge 185, anche se, quanto si riesce a intravedere, questa misura verrà perfezionata nella legge di conversione che verrà approvata nei prossimi giorni. Quindi, insomma, a giorni ci sarà anche una rete di protezione, possiamo sintetizzare così, per il lavoro interinale? Per il lavoro interinale, per gli apprendisti e anche una tantum, per gli artigiani, ma comunque un primo passo per i collaboratori a progetto. Collaboratori a progetto. Allora, poi do anche un commento su... Allora, mi stanno scrivendo molti, evidentemente, dipendenti di Alitalia che protestano a Fiumicino perché la CAI non starebbe rispettando i patti. Io non sono entrato nel merito, però dico semplicemente che 59 voli cancellati in un periodo natalizio con addirittura passeggeri, leggo le agenzie, che hanno fatto check-in per poi scoprire che non c'era il volo. Insomma, nulla questio, ma non si poteva trovare un altro strumento che l'assemblea in un periodo come questo? Chiedo, perché poi il rapporto e lo scontro magari sarà anche con la CAI, ma chi resta a terra sono i 59 passeggeri di questi 59 voli in un periodo proprio non esaltante. Ecco, vabbè, dico solo questo, non sto entrando nel merito della trattativa tra CAI e i sindacati, e l'accusa che fanno anche i sindacati che hanno firmato, che la CAI non starebbe rispettando i patti su chi si era impegnata ad assumere. Professor Tiraboschi, detto questo, immaginando a questo punto una soluzione italiana che potrebbe reggere meglio che in altri paesi, come si farà a controllare, secondo lei, quando la cassa integrazione è richiesta perché c'è una voglia di restare sul mercato ma una difficoltà momentanea, o quando invece dentro queste richieste si infilano anche imprese che avrebbero avuto difficoltà comunque, anche se non vi fosse stata la crisi finanziaria, anche se tutto fosse rimasto come prima? Guardi, il caso che indicava prima di Alitalia è emblematico del nostro paese, del nostro contesto di relazioni industriali, nel senso che noi siamo un paese che non sempre rispetta le regole, che crea delle situazioni patologiche e poi spesso si vanno a costruire le norme pensando alla patologia e non alla generalità dei comportamenti. Nel caso prima di queste astensioni improvvise con cancellazioni di voli, è una palese violazione delle norme sul diritto di sciopero. Si può avere ragione nel protestare, si può avere ragione nel ritenere che la controparte non rispetta i patti, ma non si può danneggiare il terzo. Lo stesso vale per l'utilizzo delle risorse pubbliche, come nel caso degli ammortizzatori. Noi siamo un paese che mette in gioco una quota significativa di risorse del signor reddito e poi registriamo che spesso lavoratori col sussidio vanno a fare dei lavori in nero, che imprese approfittano di questa situazione per poter anche coprire delle situazioni ordinarie che potrebbero essere gestite senza il ricorso alla cassa integrazione. Forse non si è capito da parte di molti che nel 2009 andremo a gestire una situazione di crisi veramente eccezionale. Anche i dati dell'OCSE oggi, che parlano di un aumento a livello mondiale i 25 milioni di disoccupati sono dati impressionanti, drammatici, che ci toccano. Quindi le regole sono importanti e il Ministero del Lavoro proprio oggi ha annunciato l'attivazione di una cabina di pilotaggio per gestire e monitorare l'utilizzo di questi fondi. Però è evidente che se gli abusi sono cospicui e non c'è un senso di responsabilità, non c'è la consapevolezza della difficoltà a cui stiamo andando incontro, non c'è controllo che tenga. Quindi questo forse riporta al centro dell'attenzione l'importanza nel nostro paese di superare una tradizione, una storia di relazioni industriali di vecchio regime e pensare invece a relazioni industriali moderne che diano veramente risposte alle persone e servizi alle imprese. Quindi senza steccati. Grazie, grazie anche a Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all'Università di Modena, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Tanto torneremo anche domani a trattare i temi della cronaca sull'occupazione, vedremo come il sistema saprà tenere botta, vedremo anche se poi dalle banche arriveranno segnali ancora più chiari sulla riduzione dei costi. Grazie a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani, e adesso vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.